che ti sfonda nella vera onda, occhio la bomba, smonta rimonta il cazzeggio, il mio peggio è lo spregio e lo inneggio, nel mio meglio è l'inizio e non risveglio e mi gaso con le mani su, vuoi le rime, no, siete di più, sono crazy, tre ragazze, abbiamo cannoni, parapalazzi, son cazzi matti, siamo fatti, ci stronziamo, siamo tutti pazzi, salto in questa città, e lady, questa è realtà, e chi è l'eroe dei bambini, mio a 6 anni era già cattini. E muovi le mani, muovi i piedi, arrivo nel quartiere, è meglio che ti siedi, con lo stile che ti porta con gli ferri che ho, adesso baby, piace l'hip hop, e non mi chiamo Nesli, teste malinconici, ho fibra, ritornelli melodici, per questo sono così, non me ne vado e rimango sul beat. Come mi chiamo? Vuoi saperlo? 2 anni fa mi sfottò di bastardo, era per il rap, se no per cos'era mi bombolo tutti qua perché ho una carriera. Sono nato nella T-Gang Gang, il TG del T-Bang Bang, che piacere, mi si serve nessuno, stoppo la base e ti mando a fanculo. Grida, grida, per incorrere un sogno, grida, grida, per il tuo mondo, grida, grida, se ancora ci credi, grida, grida, per rimanere in piedi, grida, grida, per incorrere un sogno, grida, grida, per il tuo mondo, grida, grida, se ancora ci credi, grida, grida, per rimanere in piedi. La generazione creda SOS è la mia, ascolta la SF, scommesse perse da figli, illudo con le rime, chiamo Giudini e fai bling bling, offri un drink nella street, preghi per un film, mi rilasso con un bonbon, mi rispetto va all'MCO. Lo sono, e come tutti quanti, le tipe sono soldi, ho pieno di contanti, salti salti, se ci sono io, salti salti, se dico bella zio, il resto, sai che tipi, sorrimo nel club con il prossimo disco, rischio, per ciò che preferisco, me ne infisco, e ti finisco, saltami, e non cambierò, e se i CH rimane il mio flow, il mio rap, è come un tuono, è nato contorno me, è sottotono, a fuoco, fuoco, io sopra un palco, a fuoco, ogni mio quattro quarto, a fuoco, ora non gioco, a fuoco, ora manca fuoco, e guarda, io sono in palla, mentre le balla mi passa la canna, e parla, parla, invece di darla, e parla, parla, io voglio, il microfono è cronico, è supersonico, fonico, statico, è titanico, dal panico, da pico, risulta fatidico. Grida, grida, per incorrere un sogno, grida, grida, per il tuo mondo, grida, grida, se ancora ci credi, grida, grida, per rimanere in piedi, grida, grida, per incorrere un sogno, grida, grida, per il tuo mondo, grida, grida, se ancora ci credi, grida, grida, per rimanere in piedi, grida, grida, per incorrere un sogno, grida, grida, per il tuo mondo, grida, grida, se ancora ci credi, grida, grida, per rimanere in piedi, grida, grida, per incorrere un sogno, grida, grida, per il tuo mondo, grida, grida, se ancora ci credi, grida, grida, per rimanere in piedi, per rimanere in piedi.